Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il nostro acceleratore di particelle era una specie di fratello minore dei grandi acceleratori del CERN. Una mattina Andrea entra in ufficio e proclama: adesso ti faccio vedere una cosa veramente interessante. Sono Stefania, vivo a Noale, ho 56 anni e lavoro all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Guarda, adesso ti metti qui, tranquillo, e ti faccio vedere una cosa che ti strabilierà. Quante volte vi capita o vi è capitato nella vita che qualcuno vi dicesse così e poi fosse reale, ovviamente, che non fosse una buffonata? Cioè che qualcuno vi mostrasse una cosa che vi ha lasciato veramente a bocca aperta e che in qualche modo ha cambiato la vostra vita. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui, questa è la quarta stagione e noi continuiamo a raccontare storie. Oggi raccontiamo la storia di Stefania, che è una storia in realtà simile a molti di noi, a molti, diciamo, non nativi digitali, molte delle persone che hanno più o meno sopra i 30 anni, direi, e che hanno conosciuto quel momento in cui prima internet non c'era e poi internet c'era. E come succede sempre da un giorno all'altro, c'è qualcuno che te lo fa vedere, qualcuno che te lo mostra, o semplicemente tu che ci incappi. 349-238-6666, ve lo ricordate esattamente quel giorno lì? Dove eravate? Cosa stavate facendo? Eravate probabilmente davanti a un computer, ma con chi vi trovavate? Che cosa avete cercato nel motore di ricerca che poi non c'era ancora, o meglio, non c'era Google, c'era Altavista, ne riparavamo prima con Tiziano, c'era Virgilio però anche. Io ero in università, ai computer dell'università, perché non ce l'avevo all'epoca, e c'erano questi portatili, sai, legati, ma non legati solo con le catene, erano proprio tipo lucchettati ai banchi, e mi ricordo che un mio compagno mi disse: ah, guarda sta roba, vai su Altavista, che da lì cerchi tutto quello che ti serve. Perché mi ricordo che la prima volta avevo cercato, volevo andare in vacanza, avevo scritto vacanze, però l'avevo scritto proprio vacanze, basta, l'avevo scritto, come si chiama, sulla barra che oggi ovviamente è abitualmente una barra di ricerca, anche all'epoca, fino a qualche anno fa, no. Però comunque vi sia capitato, in qualsiasi modo abbiate scoperto il World Wide Web, 349-238-6666. La storia che vi dicevo raccontiamo oggi è la storia di Stefania, che lavorava e lavora tuttora in un ente pubblico di ricerca, e devo dire, mi ha fatto scoprire, perché ammetto che non lo sapevo, che il web è nato lì al CERN. Chissà perché io ero convinto che fosse nato per una roba militare, ero convinto che ci fosse qualcosa, no, del Pentagono, una roba. La internet è nata lì, infatti, è nata al Pentagono, DARPA si chiamava, ok. Però poi a un certo punto sono confluiti nella stessa cosa, chiedo a Tiziano Bonini, Tiz, sono confluiti in un'unica cosa, poi alla fine, un po' più complessa di come la sto facendo. Ok, va bene, Tiziano poi me la spiega meglio dopo e io pubblico su Facebook. Giustamente Fabio dice: ma vai di là a raccontarla. 349-238-6666, il giorno, il momento esatto in cui avete scoperto internet. Stefania lo ha scoperto così. Nel marzo del 1989 Tim Berners-Lee, uno scienziato del CERN, propose di sviluppare testi con nuovi tipi di collegamenti e condivisioni delle informazioni. Il documento aveva per titolo «Gestione delle informazioni, due punti, una proposta». Ecco, il web è nato così. Il CERN ha deciso di rendere pubblici gli strumenti per usare il World Wide Web 2 anni dopo la proposta fatta dall'ingegnere che aveva ideato il linguaggio HTML, e lo ha fatto per facilitare il lavoro di scambio di dati dei fisici che lavoravano al CERN. Erano gli inizi degli anni 90 ed io avevo da poco cominciato a lavorare all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, un ente di ricerca italiano che ha molti legami con il CERN di Ginevra. Da subito ho condiviso l'ufficio con Andrea, un giovane fisico sempre curioso delle novità tecnologiche e con il quale ancora adesso, dopo tanti anni, condivido l'ufficio e molti interessi tecnico-professionali. All'epoca anche noi già lavoravamo sulle reti di computer per realizzare il sistema di controllo di un acceleratore per ioni pesanti che in quel periodo era in costruzione nel nostro laboratorio. Il nostro acceleratore era ed è tuttora una specie di fratello minore dei grandi acceleratori del CERN, così come il nostro laboratorio era ed è una versione piccola e italiana del grande laboratorio europeo. Una mattina Andrea entra in ufficio e proclama: adesso ti faccio vedere una cosa veramente interessante. Si mette al terminale grafico del computer da lavoro, una workstation digital equipment, un gioiello tecnologico per l'epoca, e dopo aver trafficato per alcuni minuti dice: ecco, vieni a vedere. Mi sposto davanti al suo monitor e lui mi fa vedere una finestra con un testo in inglese in cui alcune frasi o parole sono di colore speciale, sottolineate. Vedi, mi spiega, questo è un ipertesto ed è su un computer del CERN. Le parole e le frasi sottolineate rimandano ad altri testi che le spiegano oppure le ampliano. Oppure rimandano a figure, a tabelle, insomma a qualunque cosa ti possa venire in mente per arricchire di informazioni il testo base. Tu punti con il mouse le parole sottolineate, ci clicchi sopra e voilà! L'oggetto a cui la parola punta salta fuori e si fa vedere. Bello, no? Questa cosa l'hanno fatta al CERN e si chiama World Wide Web. Nel mondo della fisica in cui lavoro l'importanza di questa innovazione è subito risultata molto chiara e nel giro di pochi anni si è diffusa anche all'esterno del mondo della fisica. Mentre lui spiega e attiva il mouse, sul monitor il testo si anima. Altri testi o figure compaiono e scompaiono, si sovrappongono vorticosamente nella dimostrazione pratica di funzionamento di un ipertesto. È splendido, commento io. Davvero molto interessante. Se ne potranno fare cose di grande utilità. Forse potremmo usarle anche noi, questi ipertesti. Ecco, come Andrea, anch'io avevo intuito subito che si sarebbe potuto fare molto con quell'idea geniale. Ma chi avrebbe mai immaginato quello che è venuto dopo? Per molti anni, a testimoniare questa genesi, sul sito ufficiale del CERN è rimasta la scritta Where the World Wide Web was born. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up in time. Non la troviamo davanti a un monitor, la troviamo in montagna con uno zaino sulle spalle, un bastone in mano ed è sorridente. È Stefania, la trovate sul nostro sito. Pronto Stefania? Pronto? Mi senti? Ciao Stefania, ti sento benissimo. Dove sei in questo momento? Sono davanti a dei monitor perché sono in ufficio. Ok, quindi sei più o meno dove è ambientata la storia, più o meno. Più o meno, sì. Nel senso che non è lo stesso ufficio di 20 anni fa. No, è stato cambiato proprio da qualche mese, per cui non sono più con Andrea. Non sei neanche più con Andrea? No. Ah, stavo giusto per chiederti come vanno le cose con Andrea, con cui hai condiviso per quanti anni? 20? L'ufficio. Più, quasi 25. Quindi adesso sei salita di grado, Stefania? Sei capo? No, semplicemente c'erano delle esigenze di lavoro, per cui siamo stati cambiati di stanza e non siamo più insieme. Stefania, ci racconti qualcosa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare? Cioè, che cosa fate? Che tipo di ricerche fate lì? Sono ricerche di fisica di base, e soprattutto qui in Italia sulla struttura del nucleo, però molti ricercatori del nostro istituto lavorano al CERN, quindi in esperimenti di alta energia come quello che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Ah, quindi sono in prestito al CERN o sono lì da voi? Sono in prestito al CERN. Ah, sono a Ginevra quindi? Sì. Ah, ok. Quindi di fatto c'è una sorta di fratellanza tra l'istituto e il CERN, giusto? Cioè, tra sì, voi sì, e il CERN. C'è un forte legame. Tu com'è che hai cominciato a fare la ricercatrice? Cioè, quando tu sei una fisica, giusto? No, sono ingegnere elettronico io. Ah, ok. E quando è che hai deciso che saresti diventata una ricercatrice? Circa 25 anni fa ho avuto l'occasione di venire a lavorare qui, c'era un acceleratore in costruzione e c'era bisogno anche di ingegneri per lavorare su alcune parti di questo acceleratore. Quindi tu lavori sull'acceleratore? Sì. Cioè non fai ricerca, o meglio, non fai ricerca diretta, fai... Sono in un gruppo che fornisce gli strumenti per fare la ricerca, quindi questo acceleratore è un grande strumento per produrre i dati per la ricerca. Effettivamente ci vorrebbe Mr. Kilowatt, ci vorrebbe Maurizio Melis adesso per parlare con te, però perdonami l'ignoranza, l'acceleratore è quanto è grande? Quello che abbiamo qui nel nostro laboratorio di Legnaro, in realtà sono 5 acceleratori diversi e il più grande occupa un capannone industriale, quindi una settantina di metri di lunghezza per 30 di larghezza. E che forma ha? È simile a quello che si vede del CERN nelle foto? No, è abbastanza diverso, perché l'acceleratore del CERN, che è molto più grande, 27 km LHC, okay, è un anello. Invece il nostro, l'acceleratore più grande che c'è qui a Legnaro, è un acceleratore lineare a radiofrequenza. È abbastanza diverso. Quindi è un tunnel, è un tubo? È un tubo, sì, è un tubo che inizia da una parte con una sorgente di particelle e finisce dall'altra parte, dove c'è l'esperimento, dove le particelle accelerate vanno Si schiantano contro qualcosa alla fine. Esatto. Ok, tipo una sorta di crash test per particelle. Esattamente. Oh, abbiamo trovato l'immagine giusta, perdonami la volgarità. Tu Stefania, quanto ci lavori? Cioè, hai un orario normale di lavoro, giusto? Sì, all'interno? Sì, è un orario normale di lavoro. Qualche volta ci sono particolari periodi in cui si può lavorare un po' di più perché ci sono delle scadenze. Ma certo, però intendo dire, tu ci ascolti lì o ci ascolti a casa? Io vi ascolto qualche volta quando torno dall'ufficio, quando riesco a tornare presto, allora in macchina vi ascolto. Invece scusami, una cosa, è vero che tu non sei ricercatrice diretta, perlomeno, però ci lavori da anni. C'è una parte di eccellenza della ricerca, quantomeno di quello di cui ti occupi, in Italia, mi sembra di capire, no? Oh sì, ci sono molti aspetti della fisica di base che portano a ricerche di eccellenza. Ad esempio qui a Legnaro una delle cose più importanti è l'uso degli elementi superconduttivi, che sono dei conduttori che vengono portati a temperature estremamente basse per avere prestazioni eccezionali. Che fantastico. Stefania, non capisco niente di quello che dici, però lo dici così bene che starei ad ascoltarti per ore, però purtroppo ti devo salutare oltre a ringraziarti. Lo salutiamo comunque Andrea, che in qualche modo magari ascolterà questa puntata, anche se non è più in ufficio con noi. Spero di sì. Plurale maestati, sempre a caso. Grazie ancora Stefania, buona giornata. Ciao, a presto, grazie. 349-238-6666. Oggi abbiamo raccontato la storia di Stefania e, come avete scoperto ieri, questa piccola novità per cui c'è un po' più di narrazione in ogni puntata di Voi Siete Qui, e adesso vi racconterò la seconda storia. Non prima però di leggere alcuni dei messaggi che sono arrivati. La prima volta che ho scoperto internet, ero in terza elementare, ho cercato come salvare un documento Word, era il compito di informatica, ma in terza elementare c'erano i compiti di informatica, io l'ho fatta all'università. La prima volta c'erano ancora le BBS, una roba non del tutto comoda, ero al liceo, forse il 95, ma soprattutto ci arriva un messaggio da Daniele Scarpa, che è un canoista italiano, medaglia d'oro e d'argento, che mi scrive: Los Angeles 1984, erano le Olimpiadi, scoprì al villaggio olimpico la rete internet. Daniele Scarpa, insomma, sappiamo che è medaglia d'oro e d'argento e era la sua quarta Olimpiade, no, Atlanta 96 fu la sua quarta e ultima Olimpiade. Salutiamo Daniele Scarpa e andiamo avanti con la storia, perché leggendo la storia di Stefania ho scoperto qualcosa in più. Quando penso ai luoghi in cui si fa ricerca, io sono sempre molto combattuto. Da una parte ne sono chiaramente incuriosito, dall'altra invece ho un po' paura a cercare di avvicinarmi e ad approfondire ciò che fanno, probabilmente per il timore di non capirci nulla, proprio come con Stefania, e di vivere una frustrazione in peritura. Ho scoperto però che il CERN è uno dei laboratori di ricerca più conosciuti, e lo è grazie alle recenti scoperte, quelle sul bosone di Higgs, che tutti hanno sentito nominare. Sfido però chiunque a spiegare di che cosa si tratta. Tutti noi però siamo d'accordo sul fatto che quella è una scoperta sicuramente fondamentale per il genere umano. E dopo aver letto la storia di Stefania e aver scoperto che internet è nato lì, e ripeto, dico scoperto perché ammetto che non lo sapevo, io mi sono fatto un giro sul sito del CERN. E tra le varie cose incomprensibili che ho trovato, c'è un canale YouTube con una serie di video che si chiama CERN People. Praticamente fanno raccontare dai ricercatori stessi quello a cui stanno lavorando. Uno di questi video si intitola SUSY, con la Y finale, che sta per supersimmetria. Una teoria che spiegherebbe un sacco di cose che io adesso esattamente non so spiegare. So, we call SUSY supersymmetry. It was proposed as a solution of many problems in physics, in energy physics. A lot of us are looking for SUSY because it's a nice theory and we think it should be there and we have to find it. I due ricercatori che avete sentito sono ragazzi di 30 anni, uno americano, l'ultimo che si chiama Zach, e il primo invece è un italiano, si chiama Maurizio. Nel video raccontano perché la supersimmetria è importante, ma anche come questa teoria che loro inseguono da anni potrebbe rivelarsi sbagliata e quindi completamente inutile. Pare che esistano molti modi e molti metodi per la ricerca e per la verifica della teoria della supersimmetria. E a questo proposito Maurizio, il ragazzo italiano, dice, tra le altre cose, il mio incubo è quello che quell'altra cosa, quella che non sto cercando, sia la cosa giusta. E questo però in fondo non ha a che fare solo con chi fa ricercatore di mestiere, ha un po' a che fare con la vita di tutti i giorni, no? Di ognuno di noi, con il fatto di fare una cosa e avere la speranza che sia quella giusta e invece la paura che sia sbagliata, ma anche dire qualcosa sperando che non sia una banalità, una stupidaggine o un consiglio sbagliato. Poi, dal momento che dicono che le scoperte migliori sono quelle che si fanno mentre si cerca qualcos'altro, probabilmente è giusto semplicemente continuare a fare e a cercare. E comunque la storia di Stefania racconta di come è nato internet e del fatto che è nato perché era utile per fare altro, per condividere dati e informazioni internamente prima e poi esternamente al CERN. Io nella mia vita purtroppo non ho scoperto nulla di fondamentale, però continuo a cercare, che da qualche parte, prima o poi, arriverò. E alla fine, dalla storia di Stefania, ho capito che 1. Internet non serve solo per scorrere le gallerie semi-pornografiche dei quotidiani italiani. 2. Quando qualcuno ti dice adesso ti faccio vedere una cosa veramente interessante, ecco, delle volte ha ragione lui. 3. Il CERN è veramente pieno di gente figa. 4. La supersimmetria forse non esiste, però ha un nome bellissimo. E 5. Anche se non trovi nulla, tu continua a cercare. Non ricordo il nome, non ricordo il giorno, ma il fatto che costava tantissimo andare in internet. Io condividevo con alcuni amici dei numeri di telefono riservati e segreti che dovevano essere utilizzati dai funzionari SIP ed Enel solo per lavoro. 349-238-6666. Chiudiamo la puntata di oggi cercando di capire come avete conosciuto internet e qual era il primo giorno. La prima volta di internet nel 96, da un amico che mostrava la sua nuova connessione come se fosse la collezione di farfalle. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi. Noi continuiamo a raccontare, voi continuate a inviare le vostre storie, a voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Fabio Cantadori, grazie a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Voi scaricatevi i podcast del programma gratuitamente o da iTunes abbonandovi oppure dal sito di Radio 24. Tra mezz'oretta, un'oretta sarà disponibile immediatamente la puntata. Se invece volete continuare a guardare tutto quello che facciamo in più oltre alla radio, andate sul nostro profilo Facebook o Twitter. Voi siete qui Radio 24, voi siete qui R24. Grazie soprattutto a Stefania. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Paolo, vivo a Rovigo. La storia di domani è la mia e parla di una gara in bici. Questa è la mia storia e io sono qui.